controllata travestiti, scolorita scurocchiali. E pallida, mi sembra un poco giù. A cartocce esperienze leggete dalla finestra. Ma è proprio questo, quello che vuoi tu. Disegni bambole su petti d'uomo, costruisci ogni giorno il tuo principe azzurro. Vorresti arrivare nel più alto dei cieli, ma resti inchiodata più sicura di ieri. Rantolata tra vestiti, scolorita scurocchiali. E pallida, mi sembri un poco giù. A cartocce esperienze le getto dalla finestra. Ma è proprio questo, quello che vuoi tu. Vivi nel caos con stampelle di miele, parli agli uccelli con slogan di pace. Ridi di quello che hai paura di dire, non ti guardi mai intorno al tuo modo di fare. Rantolata tra vestiti, scolorita scurocchiali. E pallida, mi sembri un poco giù. Rantolata tra vestiti, scolorita scurocchiali. Pallida, mi sembri un poco giù. Disegni bambole su petti d'uomo, costruisci ogni giorno il tuo principe azzurro. Vorresti arrivare nel più alto dei cieli, ma resti inchiodata più sicura di ieri.